Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. 16:33, Luca Tremolada, buongiorno Sandro Mangiaterra. Buongiorno, ciao. Per la serie Facciamoci del Male, l'azienda che oggi raccontiamo è la IPC di Portogruaro, cioè una parola con più R non c'era, Mangiaterra l'è andata a cercare, ma prima abbiamo le news. È tempo di sconfinamenti. Ieri sera Google ha annunciato che trasformerà l'email in una sorta di social network. Il nuovo servizio, chiamato Google Buzz, assorbe le funzioni tipiche di Facebook e Twitter. Intanto Facebook continua a ragionare sull'ipotesi di trasformare il proprio sistema di messaggi in una posta elettronica. Insomma, tutti fanno tutto. In palio i milioni di utenti che bloggano, chattano, twitterano e così via. Gli europei sono media multitasker, navigano online e guardano contemporaneamente la TV almeno una volta a settimana. Quasi la metà di loro lo fa praticamente tutti i giorni. Questo quanto emerge dai risultati della ricerca Media Mashing, un nuovo studio condotto da Microsoft Advertising. Per chi produce contenuti e paga la pubblicità, sarà sempre più difficile catturare l'attenzione. Secondo la ricerca Sessualità e Internet, i comportamenti dei teenager italiani, 4 ragazzini su 100 tra i 12 e 14 anni e 8 su 100 tra i 15 e i 17, hanno dichiarato di aver diffuso su internet proprie immagini di nudo o in pose sexy. Un dato forse sottostimato, perché alla domanda se questa sia una prassi diffusa tra gli amici, la percentuale di quanti rispondono affermativamente sale al 22%. Il dato è preoccupante. Mangiaterra, lei condivide foto su internet? No. Personalmente non condivido per il bene, diciamo, del popolo della rete. Insomma. Lei ha un approccio turistico a internet. Guardo qua, guardo là, vedo gente. E poi scappo via tranquillamente. Però, insomma, gira il mondo mentre noi restiamo connessi appunto a condividere le nostre foto, i nostri video, e ha incrociato questa IPC di Portogruaro. Vediamo di dirlo una volta sola e basta, in provincia di Venezia, perché cosa inventano loro? Caro, perché loro si occupano, cioè quando scatta l'ora delle pulizie, tac, arriva la IPC di Portogruaro, perché te sembra facile, spazzolone, detersivo, queste cose qua, invece questi della IPC sono degli scienziati della pulizia e quindi pensa che sono arrivati dall'aspirapolvere al robot, alla robotica, quindi, cioè, nel senso, robot per i palazzi, mi sembra, esatto, di capire. Ma dopo ne parleremo. Noi presentiamo il nostro ospite Walter Tomasi. Buongiorno. Buongiorno. Sentiamo subito la scheda. Dai tradizionali aspirapolvere ai robot per lavare le facciate dei grattacieli, ovvero dalla meccanica alla meccatronica alla robotica. È la svolta che Walter Tomasi ha impresso alla IPC di Portogruaro, in provincia di Venezia, gruppo che produce apparecchiature per la pulizia professionale. 300 milioni di fatturato, l'87% realizzato sui mercati internazionali, 1.100 dipendenti. Tomasi laurea in economia a Venezia e specializzazione in gestione aziendale al Politecnico e alla Bocconi di Milano, ha dato alla IPC una forte spinta nella ricerca e nella brevettizzazione. Così a Portogruaro sono diventati leader nella produzione di macchinari molto particolari, per esempio per la pulizia dei graffiti o per l'igiene ospedaliera. Il tutto adottando alta tecnologia e con la massima attenzione all'impatto ambientale, cioè alla riduzione di acqua e di sostanze chimiche. Senta Tomasi, ma come funziona una macchina antigraffiti? Tramite un adattamento di una tecnologia comunque esistente all'interno delle diverse aziende del gruppo, per la tecnologia dell'acqua in pressione, è stata creata una macchina che, sparando dell'acqua assieme ad un inerte, per cui una sostanza non chimica, del bicarbonato sostanzialmente contro il grafito, è in grado di pulire appunto la superficie senza dover usare dei solventi di tipo chimico. Cioè consuma un sacco comunque una macchina, cioè, perché lo spara ad altissima velocità, immagino. In realtà diciamo, l'azione meccanica data dalla pressione dell'acqua poi integra ovviamente l'azione dell'inerte, per cui il costo della pulizia con questa macchina è senz'altro di molto inferiore rispetto a quello di una pulizia, diciamo, con del solvente chimico, Ancora più grande per le amministrazioni comunali, perché in realtà è una pulizia che può fare direttamente l'operaio dell'ufficio di manutenzione senza chiamare una ditta specializzata che poi ha personale qualificato per usare sostanze chimiche. No, me lo domandavo perché, vabbè, cioè nel senso, io mi sono sempre domandato quando vedo qualcuno con lo spazzolone, soprattutto a Milano c'è cioè questa moda di cancellare tutti i graffiti, anche quando magari sono belli, secondo il mio parere personale, tutto quanto. Mi sono sempre chiesto se ne valga la pena, anche cioè, perché il giorno dopo ritorna. È matematico. Però insomma mi pare di capire che è un business molto importante per voi, questo della pulizia dei graffiti. È uno dei vostri business, no Tomasi? Sì, senz'altro è emergente. Un mercato molto importante, quello della pulizia delle città, del city cleaning in genere, che è un'area poi di sviluppo di prodotti della quale fa parte poi anche la macchina per pulire i grattacieli che prima avete fatto cenno prima. E perché è un mercato potenzialmente importante, basta girare per qualsiasi città in Italia o anche all'estero, ed è un mercato che noi diciamo stiamo approcciando e su cui stiamo effettuando di fatto le prime vendite, per cui come dire attualmente rappresenta una quota minima del fatturato, ma senz'altro diciamo copre uno di quei driver di sviluppo legato all'ecologia, alla pulizia cittadina, sul quale sicuramente puntiamo sul medio termine. Ecco, tra l'altro no, prima di arrivare al robot, cioè a me hanno detto che sul particolato polveri sottili, cioè che parte la responsabilità delle polveri sottili è legata proprio alla polvere che sta sulla strada, per cui sono le gomme che la alzano più che il motore. Anche a lei risulta? Sì, questo è vero, ovvio che la nostra tecnologia e le nostre macchine al momento non hanno nessun tipo poi di prodotto per questo particolare problema. Delle polveri sottili, no, verrebbe dire, esatto. Se le strade sono pulite bene, cioè questo aiuta di più magari di altre operazioni, non lo so. No, senz'altro potrebbe essere così, un nuovo prodotto, un nuovo concept a cui pensare. Comunque Tomasi, in tutto questo voi appunto fate macchinari per la pulizia professionale, avete 7 aziende specializzate in campi diversi, ma cioè, io sono un po' indietro, ma perché è così importante la tecnologia? Voi avete un sacco di brevetti, incrociate elettronica, meccanica, robotica, ma che cosa è cambiato rispetto allo spazzolone, al famoso netturbino? No, diciamo che nella misura in cui, grazie, ma lo sviluppo di nuove tecnologie, o come nel nostro caso, diciamo l'integrazione di tecnologie già presenti poi diciamo all'interno delle aziende del gruppo, però ripensate, rimescolate se vuole in maniera creativa, l'effetto che si ottiene poi è sempre quello di sostituire il lavoro umano piuttosto che diciamo un prodotto chimico, perché la pulizia, pensate bene, sempre anche la lavatrice di casa insomma la si fa usando della forza meccanica del lavoro, del tempo e del supporto di tipo chimico. Ecco, quando una macchina è in grado di sostituire diciamo qualcuno di questi fattori genera da una parte risparmio economico, se appunto si risparmia sul lavoro piuttosto che su quella chimica stesso, e ovviamente anche altri effetti positivi tipo ad esempio rispetto all'ambiente, perché consumando diciamo non utilizzando chimica per niente, ovviamente siamo soluzioni anche più rispettose poi dei temi ambientali. Secondo me bisognerebbe fare un'inchiesta per poi andare a capire veramente quanto costa il lavoro delle pulizie nelle città lasciato alle persone e quanto invece affidato alle macchine, perché poi non è sempre chiaro, non è tutto la luce del sole questo mondo, voi vi avvicinate, vi approcciate con la tecnologia, però è un mondo complicato quello del cleaning spalmato sulla città. È complicato, è senz'altro, diciamo, sono attività molto costose, tant'è vero che negli esempi che ho fatto prima, in Italia ad esempio, proprio uno rinuncia poi ad affrontare lo sforzo legato alla pulizia, prende i palazzi in vetro, meno presenti in Italia rispetto ad altre città, soprattutto in Nord America, Medio Oriente, nelle città diciamo in rapido sviluppo. Ma in Italia, ad esempio, i palazzi in vetro di fatto non vengono puliti, per cui lei vede dei palazzi anche abbastanza recenti, di 10 anni, che perdono anche valore, come dire, economico, se vuole, oltre che gradevolezza estetica. C'è anche questo aspetto. Il fatto che in 10 anni uno non li pulisce perché le tecniche attuali sono troppo onerose e spesso rischiosa, perché se li mette una persona in parete ovviamente ci sono anche dei rischi poi legati agli incidenti, perché uno preferisce proprio non pulire i palazzi piuttosto che i graffiti. Sentiamo com'è questo robot? Sentiamolo. Si chiama Eagle, l'ultimo gioiello tecnologico della IPC. Un robot per pulire le facciate a vetro dei grattacieli senza l'impiego di manodopera appesa a centinaia di metri di altezza. Eagle, frutto di un brevetto internazionale chiamato Sky Pro, cala dall'alto e si muove con un braccio meccanico allungabile, comandato a distanza da un sistema wireless. Massima sicurezza, dunque, ma anche grande risparmio economico e tempi di pulizia che da giorni e settimane si riducono a poche ore. Una rivoluzione, insomma. Non a caso, l'Aquila Veneta sta suscitando enorme interesse negli Stati Uniti. Il primo robot lavavetri è stato acquistato dall'hotel casinò Windy Las Vegas, un gigante da 2700 camere. Subito una cosa, quanto costa una macchina del genere? Allora, ci sono diverse taglie, diverse dimensioni. Diciamo, quella che è andata a Las Vegas, Ecco, la macchina di Las Vegas costa in euro intorno ai 100.000 euro, mentre la macchina più piccola, in versione portatile, più utilizzabile anche da un'impresa di pulizia, grosso modo, poi dipende dall'accessoristica, delle dimensioni, il minimo parte intorno ai 40.000 euro. Ecco, la seconda cosa che però magari mi risponde subito dopo, le faccio già la domanda, è: ma dov'è l'innovazione? Perché messa così sembra un braccio automeccanico, ma comandato a distanza, banalmente. Mi risponde subito dopo? No, come vuole, o subito dopo. Subito dopo. Nova Lab 24. E eccoci, 16:45, siamo con Walter Tomasi della IPC di Porto Gruaro. L'hai detto tu, perché il nome è drammatico per chi ha la R strana. Siamo anche in compagnia di Pierangelo Soldavini, invece, che ha una R splendente, limpida. Insomma, la domanda che ci siamo posti, un po' cattivella, è: ma dove sta l'innovazione in questo robot che scala le pareti, che però sembra un meccanico, ma comandato, insomma, da remoto? Voi avete fatto anche un brevetto su questo, un brevetto internazionale, no? iRise di Eagle è proprio, diciamo, un esempio di come si possa creare innovazione in realtà combinando tecnologie presenti, come dicevo prima, nelle diverse aziende che fanno parte appunto del gruppo IPC. In questo caso si è messa, diciamo, assieme la competenza legata al cleaning di vetri, e c'è un'azienda, la Purex di Brescia, che proprio è specializzata in pulizia di vetri, con la tecnologia dell'acqua impressione e per capirci, l'azienda di Porto Gruaro, dove ha sede la holding del gruppo, si occupa di macchine pulitrici con acqua in alta pressione, e condendo tutto questo, diciamo, comunque con dei brevetti. Nel caso specifico, il brevetto, uno dei brevetti quantomeno più importante, è lo Sky Thruster, cioè un sistema di ventolo in qualche modo che tiene questa macchina aderente alla parete, per cui da una parte permette che ci sia la corretta azione abrasiva da parte della spazzola e sia stabile poi anche in condizioni magari di vento in altezza nei palazzi, cose rispetto ai quali tentativi fatti negli anni passati, a partire dagli anni 60. Cioè, la spazzola non stava aderente sostanzialmente. Esatto, lei se mette, diciamo, una spazzola rotante, tipo l'autolavaggio di un'auto, per capirci, in verticale lungo una parete, quella gira, ma girando l'attrito contro la parete la respinge dalla parete stessa, per cui diventa fortemente instabile e il lavoro non viene fatto correttamente. Ripeto, la buona parte dei progetti falliti su prodotti analoghi nel mercato americano hanno fallito proprio per questa mancanza di stabilità. Dove gli altri sono falliti? A Porto Gruaro, tac. Tra l'altro, questo vostro Eagle non usa appunto sostanze chimiche, mi pare di capire, ma solamente acqua deionizzata. Che vuol dire? Esatto, diciamo, l'acqua subisce un processo di trattamento appunto particolare di deionizzazione, che non le sto a descrivere, comunque che la rende pura e da una parte diventa aggressiva contro lo sporco, che appunto va poi a rimuovere tramite l'ausilio ovviamente anche della spazzola. Insomma, una roba e soprattutto essendo demineralizzata, quando poi asciuga non lascia assolutamente alone sulla superficie. Quindi del vetro. Quindi pulisce come il detersivo, ma oltretutto non lascia l'alone. Esatto, perché se lei pulisse con acqua normale, poi asciugando resterebbero delle macchioline con dei residui salini presenti nell'acqua, in questo caso appunto questi residui non. Senta Tomasi, ma in tutto questo c'è il grande filone di sviluppo e di innovazione, è proprio quello dell'abolizione degli agenti chimici, no? La sostituzione di forme alternative di pulizia. Ma si arriverà a pulire anche solo con l'acqua? Allora, in certe situazioni ad alta pressione, con le pompe. Esatto, tipo questa, piuttosto, diciamo, su pulizie in esterno, appunto usando poi l'acqua in pressione come agente di rimozione poi dello sporco, senz'altro, e già in buona parte, come appunto diceva lei, nel caso delle macchine a pressione, questo si può già fare. Ecco, per quello che riguarda invece le pulizie in ambienti più, diciamo, complessi, soprattutto gli interni, che vanno puliti e magari anche sanificati, per cui c'è anche e lì ci vuole un po' di chimica antibatterica, allora è diciamo difficile pensare che in prospettiva un po' di chimica comunque non stavo pensando anche ecco, sulle persone cioè... però vede sì. Chimica serve, però se diciamo non abbiamo l'obiettivo magari difficilmente raggiungibile di eliminarla, ma di ridurla drasticamente, questo comunque è possibile. Ad esempio, un'altra delle macchine che sono in fase di lancio, che uno dice non ho male lava pavimenti, che tipo di innovazione ha rispetto magari ad altre macchine che si vedono da 20 anni sul mercato? Se però le dico che appunto abbiamo una macchina che risparmia l'80% dell'acqua, che è la macchina ECS, e poi di un'altra ditta del gruppo che si va bene, va bene, abbiamo capito, cioè questa qua è un'altra innovazione che è quella nel risparmio dell'acqua. Sì, ma se lei risparmia l'80% dell'acqua lavando il pavimento, risparmia anche l'80% del detersivo, del detergente, che è diluito nell'acqua stessa. Ah, beh, certo. Però capisce che se nel pulire, ad esempio, un supermercato di medie dimensioni, lei nel giro di un anno utilizza grosso modo 300 litri. Sono di quantitativi importanti, certo. Esatto, 300 litri di detersivo. Sulle grandi superfici sono quantitativi importanti. Esatto, chiaro. Sì, si passa da 300 litri a 20 litri all'anno di detergente per pulire un supermercato. Grazie Tommasi. Chi è il suo concorrente all'estero? Allora, il maggior concorrente poi dipende da settore a settore, però diciamo la Tennant su certi settori, la Kärcher. Ma è tutta roba italiana, straniera? E tutte le fabbriche, le aziende del gruppo hanno sede in Italia, ci confrontiamo invece con questi grossi player europei. Quindi è roba europea, ok. Sì. Va bene, la ringrazio. Io okay. ho qui grazie. Soldarini che ascoltava rapito. Ah, sì, no, più che altro perché, come dire, ci offre il gancio per parlare di Nova, perché visto che parliamo di risparmio di acqua, di sostenibilità, di addirittura di pulire i grossi grattacieli con l'acqua ionizzata senza utilizzare detergenti, arriviamo con Nova che ritorna dove? Dimmelo tu, Luca, dove torna? Non sei preparato? No. Ritorna in via Gluck. Hai perso 5 secondi. Ritorna in via Gluck. Però come dire, ho conquistato un po' di ascoltatori. E trova le case invece che l'erba. Trova che le non... case che sono perché, che non sono più quelle di cemento. Sai perché di questo silenzio? Perché si mette a cantare a Mangiaterra. Cioè, io non volevo che partissi dal titolo. Perché giuro. Su queste cose qua, Adriano Celentano, è finita. Cioè, andiamo sull'argomento. Via Gluck. Via Gluck perché? Perché lui dice c'è il cemento, ci sono le case. Certo. Invece noi andiamo. Torniamo in via Gluck, ma via Gluck non è più la stessa, non ci sono più i prati, non c'è più il cemento, ma la nuova città che si va a pensare in questo periodo, in questi tempi, a partire da Milano per l'Expo, è una città che vuole essere sostenibile a 360 gradi. Quindi è chiaro che è difficile dirlo nei giorni in cui si parla un giorno sì un giorno no di blocco del traffico così, ma questo fa capire la necessità di agire. Milano sta confrontandosi per l'Expo con un guru del risparmio come Gunther Pauli, con la sua Blue Economy basata sul concetto che ogni rifiuto diventa un'opportunità, per cui un riciclo continuo, e siamo andati a vedere quali sono gli ultimi ritrovati che possono permettere di migliorare la sostenibilità in prospettiva delle città. Ne posso citare uno solo? Devi. Si parla tanto di vertical farming, per cui l'agricoltura direttamente nelle città, stiamo andando oltre, per cui a Milano, alla Bovisa, il Politecnico sta studiando delle colture idroponiche dove risparmiamo acqua non più per pulire i supermercati, ma alla base per la coltivazione. Un numero tutto da leggere, faccio l'autospot con una frase ben nota. Io ringrazio Sandro Mangiaterra, ringrazio Pierangelo Soldarini. L'appuntamento è per domani alle 16:30.